Cineplegici, il podcast per malati di cinema. Salve a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Cineplegici, il podcast realizzato da persone che non hanno niente da dire su nessun argomento. Con me abbiamo i soliti tre debosciati, l'irreperibile intrinseco Niccolò. Ciao. Ciao. Il nostro caro amico deforme, il Monco. Oh sì, ora lo ricordo, sono John Muri e di questo sono certo. Alla grande. Abbiamo l'inviato da bordo campo, il nostro caro Matteo Darkman. Ciao, ciao a tutti. Ti sei ripreso dal confronto all'ultimo sangue su Kick-Ass? Prima di tutto, dopo ne parlo di questo, prima volevo salutare il mio fan club che mi è molto caro. Senza di voi non sarei nessuno, cioè, grazie quindi a Ferro88, a Dacia e a tutti quelli che stanno con me, grazie. Secondo grazie. Me quello che... Aspetta, volevo dire anche una cosa, volevo dire a Ferro88 che se ti becca Vercelli ti gonfio il culo. Sto verrò tagliato, dai. Ciao. No, è simpatico. E invece sapevo che su Kick-Ass non hai ancora detto l'ultima parola. Io veramente non ho detto niente su Kick-Ass, più altro, perché è stato tagliato tutto bruscamente, in modo violento, da te, sì. Che lo sappiano tutti. Ti voglio e bene. Niente, quindi non è vero quello che avete sentito, è stato manomesso e non è andata a finire, cioè non è andata così però. E quindi nulla, adesso leggete la mia bellissima recensione che prossimamente uscirà. Lunga, c'è anche lunga il doppio di quella del Monco su quell'altro filmaccio su Kids. E niente. Ti resta basta. Solo da capire come funziona Gmail, che è una cosa abbastanza difficile. L'ho capito. Sì, comunque, come avete capito, insomma, posteremo anche delle recensioni sul blog. La prima è stata quella di Bright Star di Jane Campion, scritta dal Monco. E cosa vuoi dirci al riguardo, Luca? Io non ho parlato di Bright Star, cioè mi avete tagliato tutto i pezzi che io ho scritto sul blog e non è giusto. Però comunque niente, va bene così. Che tristi parodie proprio. Guarda che Darkman, abbiamo tolto le tue parti di Kick-Ass perché troppo silenzio fa, sì, fa, certo. Scendere, fa salire un po' la noia, ecco. Allora. Sì, certo. Partiamo con la prima news di oggi che riguarda la rivista americana Empire Magazine. La rivista ha stilato la classifica dei 100 migliori film in lingua straniera, ovviamente dal punto di vista degli americani, e al primo posto ha piazzato I Sette Samurai di Akira Kurosawa. Ai piedi del podio abbiamo Amélie di Genet e La corazzata Potemkin di Eisenstein. E non lo so, che cosa, innanzitutto cosa ne pensate di questa classifica? Darkman, sapevo che tu eri particolarmente irritato con gli autori di questa classifica. Non ero irritato, è che è una classifica, beh, intanto tralasciando il fatto che queste classifiche a priori hanno senso, perché riunisce i 100 miglior film non in lingua inglese, che poi una classifica potevano benissimo essere in posizioni sparse, cioè non primo, secondo, terzo, già avrebbe avuto più senso così, ma vabbè. Battle Royale, che non so che ci fa, solo a Tarantino può piacere, penso, non so, gli americani, a Tarantino. Poi ci sta la sesta posizione, che è Labirinto del Fauno, che, tralasciando la quella del film, tra tutti i film non inglesi in sesta posizione, pare alquanto assurdo. E comunque mi chiedo perché primo Kurosawa, cioè perché primo Kurosawa e non lo so, Godard me lo ritrovo in 75esima posizione fino all'ultimo respiro, cioè non è che deve essere primo Godard, però perché Godard che fa un cinema completamente diverso da quello di Kurosawa, me lo ritrovo così in fondo. Infatti uno dei temi clou dei pareri dei nostri ascoltatori che hanno risposto alla nostra richiesta di partecipare alla trasmissione è proprio quello del fatto che non è criticabile da un punto di vista contenutistico la classifica secondo loro, ma comunque da un punto di vista di graduatoria è abbastanza fallace. Non è vero. Anche da un punto di vista contenutistico secondo te non è valida? L'ho appena detto, sono dei film che non c'entrano niente e altri che mi sono delle gravi mancanze. Secondo te è intrinseco? Non l'ho letta tutta, però intanto del fatto che ci siano insomma, titoli diversi, non è la prima classifica che postano su internet, di solito sono un po' più patetiche, questa ha meno senso ancora, però cioè, c'è Amélie, già l'hai citato tu, non è frequente questo tipo di classifiche. Non così, no. No, appunto. Sì, poi non ha alcun senso come posizione, come titoli. Non lo so, non ha neanche un criterio, né contenuti, né... Insomma, ho preso i film per popolarità, su qualche classifica, su IMDb, non capisco. Ok. Ecco, quello che ci premeva di più sottolineare, che poi è quello che scrive anche Wave of Mutilation sul forum... Leggo testualmente: per noi malati di cinema è inevitabile gasarci quando sotto la voce remake americano, per esempio con un film come Un Sien Andalou, troverete scritto Don't Be Daft. E questo è insomma un po' l'argomento che avevamo trattato nella puntata scorsa, ovvero il fatto che comunque che gli americani... Scusi, ma io non lo so mica l'inglese, eh. Appunto, quindi se non hanno il film in lingua inglese odiano leggere al cinema. E la cosa allucinante di questa classifica è che per ogni film è presente il trafiletto che chiede se ci sarà un remake americano, se c'è stato un remake americano. Il fatto è che non è ironico, ovviamente, ma la cosa è abbastanza seria e a noi ha fatto un po' sorridere, dato che ci abbiamo speso non so quanti minuti nella scorsa puntata. Ma questo conferma che gli americani non vedono di malocchio il remake, anzi, è solo un metodo. Mi piace. Sì, è solo un metodo per poter vedere quei film. Ovviamente non li vedono, vedono un'altra versione, una versione contraffatta, però... Un po' come il remake di Let Me In. Lasciami entrare, usiamo l'italiano, che qui cioè, ci sono i familiari di Darko anche ascoltano, non capisco. Sì. Avete visto il trailer del nuovo Lasciami Entrare? Pedisseco e brutto. No. A me mi è sembrato anche abbastanza fuorviante, se sarà fedele il trailer. Alcune scene sono uguali identiche. Poi vabbè, magari sarà messo con un ritmo diverso e tutto sbagliato, però doveva solo copiare, certe che scene sono uguali identiche, almeno nel trailer è così. Una cosa che mi aveva fatto riflettere riguardo questa lista era alla posizione 75, Idioti, no? Di Von Trier, e praticamente la Hollywood Remake, la spiegazione che danno è che non si può fare, non è stato fatto, comunque non ho capito se è il futuro o il passato, perché c'è troppa nudità nel film, cioè questo ti fa capire quanto Hollywood sta praticamente infognata in se stessa. Dicevo che non è la cosa peggiore, perché in classifica è presente anche La città incantata di Miyazaki, e tra le motivazioni dell'improbabilità di un remake hollywoodiano c'è quella che gli americani potrebbero non tollerare dei fogli di carta che attaccano un dragone. Ecco, vabbè, infatti. E dopo questa direi di chiudere il discorso e passare ad altro. No, è perché comunque Ellen Page è occupata e non può fare la ragazzina. Vogliono rifarlo proprio con attori. E passiamo alla prossima news, che guarda caso riguarda sempre gli americani. Roger Ebert, che è un po' il decano della critica cinematografica statunitense, ha stilato la sua personalissima lista dei 10 motivi per il quale detesta il 3D. L'avete letta la lista? Siete d'accordo? Sì, abbastanza. Soprattutto con le immagini sono meno luminose, sì. Cioè c'è un effetto di scuramento che è terribile. E poi, vabbè, il classico, i prezzi dei biglietti sono maggiorati in una maniera imbarazzante, e poi soprattutto l'ultimo, che l'esperienza cinematografica però non può essere ripetuta a casa. Ecco, questo però... è la cosa peggiore, è una... il 3D rimarrà sempre legato alla sala. Però scusami un attimo, ciò che sta dietro al 3D è proprio il fatto di nobilitare la visione in sala rispetto a quella in casa. Secondo me questo è proprio l'unico punto del decalogo che è un po' fallace. In quanto sì, ma non funziona. Il 3D non funziona in tutta la sala. Perché se sei a lato, o sei nelle prime file, o se, anche se sei in fondo, non hai la stessa esperienza di uno che sta al centro, nel posto perfetto. Finché non arriveremo a delle specie di caschi che ti metti su e lo vedi e in qualunque posizione sei, fino a quando non arriviamo lì il 3D è inutile e non è per tutti. Non so, Intrinse voleva dire qualcosa al riguardo? Sì, no, visto che dicevate che il 3D insomma serve un po' a nobilitare il cinema, comunque a ristabilire un po' l'unicità della cosa, ma insomma intanto lo stanno già replicando sulle TV, se non sbaglio, sui computer, quindi insomma, non mi sembra tanto un'operazione per, insomma, qualcuno diceva anche per evitare la pirateria addirittura, però non... A parte che non credo sia un fattore che bloccherà la pirateria, perché appunto la stanno già sdoganando a livello domestico, con le TV, con le schede video dell'Nvidia, quindi non avrebbe senso neanche con quell'obiettivo. Vabbè, ma la copia pirata non è in 3D, è registrata malamente. No, però parlavo, quello è un altro discorso, nel senso non penso che bloccherà la pirateria, non ha questo potere, e poi non è neanche più una cosa solo cinematografica, appunto la stanno già vendendo nuovi decoder, schede video. Abbiamo posto la questione ai nostri lettori legando il successo del 3D e il conseguente scoppio di questa moda al successo al botteghino di Avatar. Duckshot One, se l'ho letto bene sul forum di Games Village, ha detto le seguenti parole: penso che il 3D deve essere implementato solo in un certo numero di progetti. L'operazione Avatar ha avuto un senso e un successo proprio perché era un film sperimentale affidato al regista che sapesse dove andare a parlare con questa tecnologia. Oltretutto, visto la popolarità del mezzo, la gente dovrebbe essere più informata sul tipo di 3D, cioè convertito o realizzato durante la lavorazione del film. C'è una news interessante al riguardo sul fatto che dopo il successo di Avatar molti film sono stati riconvertiti alla meno peggio in 3D, uno su tutti Scontro tra Titani, non so se voi l'avete visto. Sì, purtroppo. E niente, c'è una news riguardo Scontro tra Titani, parla una news presa da Bad Taste, parla chi ha riconvertito Scontro tra Titani in 3D e ci dice che i produttori sono praticamente impazziti, vogliono riconvertire quasi tutti i film di catalogo. E spiega che i costi di una riconversione sono gargantueschi. Si parla addirittura di $55,000 o $100,000 al minuto. Non al minuto di pellicola, ma al minuto di lavoro. Che è una cifra impressionante. C'era... di film. Sì. E, tra l'altro c'era anche la news recente della riconversione in 3D del leggendario film di Ed Wood, Plane 9 from Outer Space. Che il Monco ha visto. Sì, bellissimo, bellissimo. Un vero capolavoro della fantascienza anni 50. E la particolarità di questa news era che chi si sta occupando della riconversione ha detto che al minuto costa più di quanto è costato tutto Plane 9 from Outer Space. Circa $66,000 al minuto, quindi una riconversione. Ma perché è proprio quello? Così si vede l'erba finta che si solleva nel cimitero. Già. Si vedrà meglio quando era brutto, è giusto. Comunque, riguardo quello che diceva il Monco sul fatto che in sala dipende molto dalla posizione che hai rispetto allo schermo, l'effetto del 3D, diciamo che questo riguarda soprattutto quei film che tendono a diventare dei giocattoloni con oggetti che escono dallo schermo, eccetera. Sì, a riguardo, dimmi. È anche vero che finora quasi l'80% si gioca proprio su quello. Sì, su Wired dell'ultimo mese, che deve uscire tra qualche giorno in edicola, c'è un articolo interessante sulla Pixar, e in particolare c'è un'intervista all'italiano Guido Quaroni, che è Supervisor Technical Director della Pixar, uno dei ruoli massimi del settore tecnico, E nell'intervista, cito testualmente, dice che abbiamo sperimentato parecchio e la regola assoluta che ci siamo dati è sfruttare principalmente la profondità dallo schermo in poi e non verso lo spettatore. Il cinema deve essere una finestra sul mondo, non deve essere il film a entrare in sala. Oh, ok, rimaniamo un attimo sul 3D. Sì. Perché c'è una chicca. Martin Scorsese si è dato al 3D. No. Qualcuno lo sapeva? No. E questa è una notizione. Credo che sia il primo caso, da 50 anni a questa parte, cioè da Il delitto perfetto di Hitchcock, che un regista, un autore, un vero regista e non un esperto di tecnologie nuove come James Cameron, che si mette a usare il 3D. Per la prima volta potrebbe uscire un lavoro interessante e non che usa il 3D come, come un mezzo solo per far venire più gente al cinema. E comunque il film sono una puttanata. È la storia di Hugo Cabret, o Cabret, credo Cabret, che è tratta da un romanzo di Brian Selznick, ed è la storia di un giovane orfano che vive in segreto tra le mura di una stazione parigina. Quando incontra una macchinetta rotta, una ragazza eccentrica e un uomo freddo e riservato che gestisce il negozio di giocattoli, cioè finora sembra quasi la bottega di Mr. Magorium, e si trova catapultato in una magica e misteriosa avventura che mette a rischio i suoi segreti. Ecco, prima di leggere la trama ero speranzoso. Adesso, no. Cioè questa sarebbe la trama del nuovo film di Scorsese? Sì, sì. L'ha scritta lui insieme a John Logan, hanno già scritto insieme The Aviator. E Johnny Depp è tra i produttori, i miei coglioni. Comunque c'è tempo, uscirà nel dicembre del 2011, un anno e mezzo ancora. Ma passiamo ad altro, dai, che ci siamo dilungati anche troppo su questa news. Dopo la riconversione di Scontro da Titani, un'altra riconversione che sicuramente farà discutere è quella dell'ultimo film di M. Night Shyamalan, L'ultimo dominatore dell'aria, che ci permette di introdurre la news che riguarda il budget di questo filmone del regista indiano. Un budget che secondo il Los Angeles Times avrebbe sfiorato la ragguardevole cifra di 280 milioni di dollari, tra i 150 milioni di budget per la produzione e i 130 milioni per la pubblicità. Il film è uscito oggi, 1 luglio, nei cinema americani ed è stato già stroncato dalla totalità della critica. Sulla Bibbia Rotten Tomatoes ha una percentuale del 6% di recensioni positive ed è stato smontato anche da nomi eccellenti come il già citato Roger Ebert, eccetera, eccetera. Il Monco aveva previsto un po' questo fallimento da un punto di vista critico. L'hai visto e venne il giorno. Cioè, si intuiva. La tendenza dei suoi ultimi film era... No, a prescindere, ma anche non sapendo di chi era, no? Vedendo il trailer, sapendo di cosa fa. Vabbè, sì. Io non ho il dubbio che lo sarei fatto io lo stesso. Poi certo, questi trascorsi. Non lo so, io dal trailer mi vergogno anche un po' a dirlo, ma avevo delle aspettative. Però boh. Evidentemente mi ha riposto. Classico film d'avventura, azione americano, con i bambini indiani stavolta. Cioè, quanti se ne vedono? Dicene indiani. Chissà se questi li hanno pagati o sono come quelli di milionaire. Il topos americano, i bambini indiani nei film d'avventura. Nei film d'avventura, ovviamente. Trailer è simile a tutti gli altri film americani del genere, poi bambini indiani, no. Ma questa è una tua opinione. Quali? Bambini indiani no, non c'entrano, lasciate perdere i bambini indiani. I bambini indiani costano meno, l'ha dimostrato, come cazzo si chiama l'inglese? Adesso tutti inizieranno a usare i bambini indiani. La monodopera economica. Comunque, il punto della news è che per recuperare il gargantuesco budget stipulato per la produzione del film, l'ultimo dominatore dell'area dovrà raggiungere la cifra di 500-600 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo. Non li raggiungerà mai. Vabbè, se tu inizi già così, però, poveretto, sto Shyamalan. Ha ragione, perché l'unico precedente di Shyamalan ad aver superato i 500 milioni è Il Sesto Senso, sì. 1999. Se consideriamo che da là c'è stato un crollo... E poi più ne spende, peggio va, no? Come? più soldi spende, peggio vanno i film. Sì. Poi non capisco perché a questo punto l'hanno riconvertito pure in 3D, come, cioè, diamoci la zappa sui piedi proprio. Beh, perché il 3D è la gallina dell'uovo d'oro. L'hai detto tu, e costa tantissimo. E poi hanno floppato anche svariati film in 3D negli ultimi tempi, cioè a parte Avatar e qualche... che non ha floppato, dico, a parte Avatar e a qualche altro successo come Alice, poi sono stati anche svariati flop in 3D. Ma guarda, anche ad esempio, Scontro da Titania, alla fine della fiera non è stato neanche un flop, perché nel mondo ha comunque recuperato i soldi, e forse anche grazie al sovrappezzo dei biglietti del 3D, molto probabilmente. Non c'è dato saperlo, però, visto che i prezzi del biglietto del 3D sono altissimi rispetto al prezzo del biglietto normale, è probabile che sia una delle ragioni del successo di molti film anche riconvertiti in 3D. E comunque, anche se fallirà miseramente, M. Night Shyamalan ha già il prossimo lavoro, che è 12 Strangers, ed è praticamente il primo di tre film che sono frutto di una sinergia con la Media Rights Capital, che è una società che ha dato fiducia a Shyamalan. I Maya avevano ragione, nel 2012 arriverà la fine del mondo e arriverà sotto le spoglie di un nuovo Mad Max. Infatti, come si chiama? George Miller, il regista di tutti e tre i Mad Max, quei capolavori, tornerà con un nuovo capitolo della serie. Per fortuna non è un sequel, dato che il 3 non è che finiva in un modo tanto entusiasmante, ma comunque era piuttosto ambiguo, lasciava spazio a un capitolo, se si vuole, ma sarà un reboot del primissimo, da noi arrivato con Interceptor, sì? Sì. Non è arrivato con Mad Max. Sì, hanno sgarrato tutti i titoli. Vabbè, però non è il solito remake, è la solita stronzata, però un remake di Mad Max 1 non mi sembra poi il male più grande, insomma. Tutto peggio, poteva essere un remake di La Sfera del Tuono. Esatto, ecco. Sì. Il primo, quello che doveva essere americano, quello che doveva piacere agli americani, è il peggiore. Ah, tra l'altro, il di... Thunderdome. Sì. Quello è bello. È quello, oltre alla sfera del tuo. Non dico il film, dico la costruzione dove combattono, sì, dentro, sì, la sfera di metallo in cui lotta. Sì. Due combattono, per agganciarci al discorso del mercato. Mad Max, i primi due soprattutto, visto che sono stati girati fuori. Visto che parlavi degli americani che non vogliono sentire i film in lingua originale, vogliono leggere i sottotitoli. Mad Max, che era in inglese, però l'accento australiano, l'hanno fatto ridoppiare. Il primo e il secondo. Li hanno ridoppiati perché non gli piaceva l'accento australiano. Ed è orribile, perché se guardi la versione americana è tutta fuori sincro. E le voci sono sbagliatissime. Solo perché non gli piaceva l'accento. Fantastico. Il fatto è che Tom Hardy, che è l'attore che dovrebbe sostituire Mel Gibson come protagonista, ha parlato di una ristrutturazione completa con lo stesso personaggio aggiornato di 30 anni. Voi che siete appassionati, non vi fanno un po' tremare dichiarazioni simili? Del fatto che comunque verrà aggiornato? Forse è quasi meglio, no? Non massacrano l'originale. No, comunque, già il fatto che riciclino Mad Max non mi fa sperare bene. Poi il fatto che lo cambiano, appunto, lo vedo più che altro una cosa positiva. Non dissacrano più di tanto, prendono solo il marchio e via. Poi c'è un minimo di originalità, magari, se cambiano qualcosina. Poi la storia del primo poteva andare bene 30 anni fa, insomma, abbastanza, quasi un western australiano, a parte le macchine. Probabilmente ora sarebbe una palla colossale, quindi... Forse la cosa positiva è che, sempre secondo le dichiarazioni di Tom Hardy, è che la computer grafica sarà ridotta, e quindi useranno più effetti speciali artigianali. Non lo so se per voi può essere un pregio o un difetto. Se lo dice lui, speriamo sia vero. A prescindere, Max il primo era proprio bello perché era artigianale, no? Le macchine erano ricostruite. Anche gli altri due sono artigianali. Perché Australia non aveva i soldi, quindi... Sì, ma... avevano solo le vacche come insegna Australia. Non erano fitte le macchine che usavano, neanche i costumi, era tutto neorealistico. Ma per fare le macchine australiani nel deserto e... per fare le macchine da polizia ho letto che legavano insieme delle mucche. Io ho letto così, me ne sembra che l'ha detto il cugino. E le mucche su schermo erano cavalli dipinti, è vero? Esatto, perché sì, non rendono, esatto, bene. grande per fare i cavalli legavano insieme un mucchio di gatti. Una piccola nota, non so, sarà un remake, un reboot solo dell'uno, o magari sarà un reboot con qualche influenza dal 2, visto che il 2 è già più sul genere post-apocalittico, che adesso va per la, insomma, tira adesso questo genere, mi chiedevo. E poi George Miller, sì, 70 anni, 30 anni fa faceva questo genere di film, ultimamente si è dato a Babe, Maialino coraggioso e Happy Feet, che tra l'altro prima di Mad Max farà Happy Feet 2 in 3D. Ecco, non è che sono passati un po' di anni e lui non è più... insomma, Mad Max 1 non era... era anche un po' violento, c'era una dose di sangue grazie a Kundalini, un personaggio favoloso. Non è che adesso ha perso quella dose di violenza, che adesso fai i film per bambini, non so. Ma gli altri due hanno persa la dose di violenza, già il secondo non ricordo bene. Il terzo con i bambini, dai. È apposta. Ah, vabbè. Sì, ok, sì, nel senso, dico, non è violento, la versa tutta quella... quella... appunto, lui vuole fare un remake dell'uno. No, guarda, quello più violento. Dalle dichiarazioni di Tom Hardy sembra che il remake riguardi l'universo di Mad Max in generale. Non c'è scritto che riguardi prettamente il primo episodio. Quindi, sinceramente, non lo so. Non so come fa a legare l'uno al due. L'uno era... molto diverso dal 2, non c'era ancora... No, però sono quasi consecutivi, quindi... Sì, ma non c'era ancora quell'ambiente, no? Non era ancora successo niente. Si capiva, ma... nel primo è in una cittadina che sì, è povera, è abbastanza scarna, però in effetti non sembra un mondo post-apocalittico. Non era ancora post-apocalittico. No, ci sono quei criminali, l'assenza di benzina, non c'era ancora, era una cosa... No, infatti, appunto, ci sono tre macchine della polizia, cioè era tutto abbastanza normale. Era un paese piccolo, ma era... forse... non so se lo dicono all'inizio del 2, la specie di apocalisse c'è stata forse tra i due film, sì. Vabbè, sì, ma in ogni caso non si parla di remake, si parla di reboot, quindi molto è anche probabile che non c'entri niente né col primo, né col secondo, né col terzo, proprio sia un film totalmente nuovo che prende solo il contesto dei Mad Max. Ma sì, comunque il contesto post-apocalistico, non lo so. Appunto, meglio così, no? Ma sì, dai. L'idea era buona, certo, ormai sarà vecchia. Ma volemo se bene perché è uscito il nuovo trailer di Harry Potter 7. L'avete visto? Per favore, deve ancora uscire. Il trailer? No. Cioè sì, l'ho visto, però a parte Hermione che mi ingrifa sempre di più, no. Cioè non mi interessa. Non ti interessa minimamente, intrinseco... Io lo trovo peggiorato Hermione. Era meglio prima, cioè nel terzo mi piaceva di più. Vabbè, ma non stiamo a parlare di dopo, stiamo a parlare di cinema, dai. Insomma, però, Harry Potter non è... Questo, poi questo, dovete smettere con le ragazzine, basta. Non è più una ragazza. Non è cresciuta tanto. Non si può parlare ora. Voi che ne pensate in generale della saga di... Il terzo è un buon film, poi dopo gli altri... Qui non anche l'ho visti gli ultimi due, quindi... Vabbè, io personalmente ho sempre trovati dei... blockbuster tutto sommato decenti, anche soprattutto se rapportati al panorama un po' desolante dei blockbuster di questi ultimi anni. E sì, effettivamente, secondo me, dicevo anche oggi sul forum, l'unico difetto grave di questa saga è che non c'è mai stata una coerenza stilistica tra un episodio e l'altro, a causa del cambio di regista. Sta diventando sempre più dark. Sì, ma si è persa anche quell'atmosfera da college che era tutto sommato divertente e diversa dai teen movie americani volgarotti, insomma, non lo so. Elena Bonham Carter c'era anche negli altri? No. Negli ultimi due sì. Nell'ultimo non ricordo. Vabbè, comunque lei sta da Dio in questo ambiente dark, sa fare solo quello. Sì. Un po' come il marito. Che sa fare, non fa nulla, la vestono in qualche modo strano e la lasciano in scena. Un bel corpetto. Cosa così, sì, esatto. Fa paura così, basta inquadrarlo. È stato rilasciato il primo teaser trailer di The Social Network, il nuovo progetto di David Fincher, il regista del curioso caso di Benjamin Button e Seven, film basato sulla nascita di Facebook e sul rapporto dei due fondatori, Zuckerman e Severin. Non lo so, avete visto il trailer? Avete delle aspettative al riguardo? Che ne pensate di Fincher? Dai, parliamone un po'. Vai Monco, parti tu. Vabbè, dal teaser trailer non si capisce niente, anche perché non c'è nessuna immagine, è solo parole vengono verso di te e alla fine si vede l'immagine, se non sbaglio, del creatore, l'attore che farà il creatore di Facebook. Cioè il teaser trailer ancora non dice niente. Però mi sembra un ottimo film, un'ottima trovata commerciale, perché al di là di quello che dirà, di quale sarà la trama, eccetera, tutti andranno a vederlo perché è Facebook. Mi interessa niente di tutto il resto, non sapranno neanche chi è il regista e altro, però è Facebook, e quindi tutti andranno a vederlo. Come ci avevano provato gli italiani con Facebook, mi sembra che è stato un flop poderoso. Non lo so, io dal trailer ho capito che non sarà un teen movie, ma sarà un film abbastanza serioso. Non lo so, cioè anche la frase non puoi guadagnare 500 milioni di dollari e non farti nemici, non lo so com'è la frase principale. È un thriller, c'è un film tra virgolette storico che racconta la storia dei creatori di Facebook. Io non ho ancora capito qual è il genere. Ma io credo che sia un mega thriller, la colonna sonora e le frasi a effetto che vengono pronunciate non mi sembra che lasciano spazio ad altre interpretazioni. Allora potrebbe anche essere interessante. Oddio, io dico come questo. Come thriller, cioè comunque Fincher, c'è una cosa che ha fatto, se c'è un genere suo è proprio il thriller. The Game, Seven e... Sono i film migliori alla fine, a parte Fight Club. Una roba simile Zodiac, potrebbe anche essere interessante come stile. Ecco, parliamo di stile, perché ripercorrendo la filmografia di Fincher abbiamo notato che non c'è una cifra stilistica che si riprende nei suoi film. Più che altro ci è sembrato che abbia avuto lo stesso stile a scaglioni, ovvero ha girato Fight Club, ha scoperto che gli piaceva un sacco introdursi con le telecamere nelle serrature e ha fatto un film tutto sulle serrature che è Panic Room praticamente, è uscita una cagata. Poi non lo so, ha fatto Zodiac che è lento e film che rappresenta bene l'epoca in cui è ambientato, e ha voluto fare in questo caso di Benjamin Button che è ugualmente lento e vorrebbe essere di ampio respiro e raccontare sia la storia dell'America che la storia del cinema americano, ma invece poi alla fine è comunque una storiella abbastanza chiusa. E non lo so, qual è lo stile di Fincher secondo voi? Non ce l'ha un vero stile. Fincher cambia a seconda della sceneggiatura. Se vedi in Seven, in Fight Club, comunque l'hai detto tu stesso, cambia proprio a seconda del film che fa. E credo che anche adesso con questo ultimo film, se magari è un thriller, potrebbe proporci un nuovo stile ancora una volta, perché già con Seven c'ha avuto uno stile abbastanza, ma neanche tanto personale, sia abbastanza, più che altro è con The Game, proprio... forse il suo film meno personale, e poi Zodiac che invece ha questo ritmo lento che comunque cerca anche un po' di dare nuova linfa al genere. Quindi cambia a seconda della sceneggiatura, infatti dipende anche da chi gliela scrive. Se il film glielo scrive qualcuno che è bravo, la maggior parte delle volte Fincher tira fuori dei buoni film. Se invece glielo scrive qualcuno che non è pratico, magari nel caso di Panic Room, escono delle porcate. Lui fondamentalmente è bravo come regista, però non è certamente un genio, non ha neanche uno stile riconoscibile. Non so. Anche perché forse non ha uno stile, perché per le sue origini da prima di tutto videoclipparo e poi esperto di effetti speciali. Appunto, a lui basta una buona storia, poi è anche coraggioso in un certo senso, perché ha fatto appunto vari generi, non si è cristallizzato su uno solo. Può darsi anche che queste sue origini insomma hanno influenzato il suo stile variegato. tu dici origini videoclippare, però non lo so, io facendo un confronto con altri registi videoclippari come Spike Jonze o Gondry, comunque loro parlano essenzialmente per immagini, gli bastano 30 secondi di immagine per farti capire tutto quello che sta succedendo, quello che vogliono, il sottotesto, il non lo so, tutto quello che vogliono dirti. A me invece Fincher mi sembra un regista abbastanza prolisso, è un regista abbastanza didascalico, a me risulta anche noioso a tratti, non lo so che... Per gli ultimi lavori, credo da Panic Room in poi, prima sì, la parola è importante per lui, però anche un buon uso delle immagini. Per esempio Fight Club potrebbe benissimo essere un videoclip, per certe caratteristiche, non è estroso come Jonze o gli altri, però mi sembra che anche lui abbia un certo stile vicino ai videoclip, è da lì che è nato. Insomma. Sì, e intrinseco al riguardo che cosa ne pensa? Sì, insomma, sono più o meno d'accordo con entrambi, nel senso che ha lo stile da videoclipparo, però al contrario di quello che hai citato, con dei... ha solo lo stile, soprattutto nei primi film poi si nota, Seven e Fight Club, ha quello stile un po' sporco, abbastanza tipico. Però c'è The Game in mezzo che non c'entra nulla con Seven. No, nel senso, proprio questi due film hanno un target particolare, Fight Club e Seven, mi sembra che parlano di un certo tipo di pubblico. Ah, anche esatto, quindi secondo me è più... non è che non mi piace, però secondo me è un regista molto furbo. Che sì, di volta in volta cambia, ma cambia in base al pubblico che ha davanti, forse per quello è bravo. Cioè Fight Club a chi può piacere, a cui, insomma, si vede a chi piace, insomma, il target di età. E in effetti ha lo stile accattivante che colpisce quel tipo di pubblico. Seven anche, crudo, in un modo che colpisce il giovane, no? E anche l'ultimo, non so, Benjamin Button, ha uno stile abbastanza diverso. Anche Zodiac, sono due film un po' più impegnati, tra virgolette. Infatti, insomma, si è un po' adattato, un po' più lento, un po' più insomma, sì, un po' più di ampio respiro come regia. Secondo me è solo non versatile, però si sa vendere bene. Poi, insomma, è più o meno riuscito, ecco, è citato Panic Room, lì non so a chi volesse mirare come pubblico, ma ha toppato alla grandezza. Agli amanti delle serrature, credo. Sì, sì, solo quelli. Sì. Sto penetrare in continuazione, c'è dietro una bella analisi da fare. Sì, sì, sì, è bello. Però Fincher è, sì. Il suo primo film è stato subito Alien 3. Sì. E non pochi sono partiti subito con un blockbuster così. Comunque anche c'è stato del coraggio da parte dei produttori di affidare subito il terzo capitolo di una saga amatissima e che ha due sequel, due prequel, che sono... da molti considerati dei capolavori della fantascienza, il 2 no. E comunque è stato coraggio a dare subito un film a un esordiente così, anche se ok, lui era un esperto di... aveva lavorato con l'azienda di Lucas Industrial Light and Magic. Sì, ma bisogna anche vedere le motivazioni del tempo. Adesso pure Spider-Man l'hanno dato a Webb, che vabbè, è nuovo. Non è un esordiente, però. No, non è un esordiente, ma ci stanno dei buoni motivi, comunque anche economici, perché ci hanno avuto dei problemi la Sony con Raimi, quindi dipende, chissà quali erano le motivazioni del tempo, e adesso non le so. Sicuramente hanno avuto coraggio, però non è che... cioè, calmiamoci, non è che... esordienti hanno scelto lui, e da lì ma non solo per continuare la saga, ma poi, senza spoilare, insomma, in teoria doveva essere il capitolo conclusivo, quindi, insomma, una bella responsabilità in generale, deve essere... l'ennesimo capitolo di una saga di un certo livello che chiudeva, e poi secondo me lì è stato anche per la questione degli effetti, appunto, che veniva da quel settore, ed è il primo Alien a usare un po' di più, beh no, insomma, anche Cameron, però nel senso, gli alieni, se non sbaglio, nel 3 sono soprattutto fatti a computer, no? Sì. Tra l'altro è anche abbastanza bruttino come effetto, non so, adesso non me lo ricordo male, però se non sbaglio era... infatti quella è una cosa strana, lui che arriva dal mondo degli effetti... ha fatto bene, insomma, quelli artigianali di Scott, l'avranno chiamato per quello, invece il film è bello per altre ragioni, per gli effetti dimenticabilissimo, invece insomma, nonostante sia denigrato parecchio. Sul film cosa ne dite, insomma, su Alien 3? Io addirittura ho il telescopio di Cameron. Io se dovessi fare una ipotetica classifica, l'1 è irraggiungibile, poi sì, forse il 3, e addirittura lancio la provocazione, il 4 davanti anche a quello di Cameron. Addirittura? Yeah. Cioè quello di Cameron proprio non mi è piaciuto. Non... Ma insomma, era sempre la solita storia con i Marines e gli alieni. Vogliamo a più Alien il 4 che quello di Cameron. Sì. Più vicino al 4. No? Sarà Winona Ryder che me lo fa piacere di più. Al di là di tutto io non lo ricordo benissimo Alien 3, però quello che apprezzarono di più del primo episodio i fans fu l'atmosfera, diciamo, come dire, opprimente, claustrofobica, sì. E questo terzo episodio, dopo l'episodio caciarone di Cameron, la conquera ha presentato un ritorno a quelle atmosfere. Cioè, almeno io me lo ricordo così, era un film molto scuro, molto, molto chiuso, molto cupo. È diverso, il primo Alien aveva molti bianchi, era bello per quello, giocava anche sui colori. Sì. Era un angosciante non legato allo scuro, era lo spazio chiuso ma anche asettico. Invece quello di Fincher era più sporco, è un carcere pieno di rottami, di coi pelati. Sì, anche... insomma, è rozzo metallico, no, ci ha messo anche di suo, però sì, è molto più vicino al primo di quanto lo sia ovviamente quello di Cameron. C'è anche un ritorno al fatto che le vittime, insomma, l'alieno non ha dei rivali seri. Nel 2 c'erano i Marines armati di tutto punto che potevano distruggerlo, sto alieno e tutti gli altri. Invece nell'1 e nel 3 gli avversari sono già, cioè le vittime, gli umani sono già più vicini a noi spettatori, ci si può più immedesimare in loro. Sono carcerati, no, nel 3. Sì, sì, appunto, però non hanno armi neanche da taglio. Appunto, sono delle persone semplici che si ritrovano davanti a un mostro che non sanno neanche, hanno mai visto. Mentre i marini sono violenti, che poi c'è quella variante, sì. Cioè, sono sempre disarmati, però è un contesto nuovo, no? Meno banale. Non sono scienziati, non sono soldati, i prigionieri magari anche non hanno fatto nulla di che, però... Anche perché dici, vabbè, se muoiono i prigionieri chi se ne frega, sono sempre della feccia umana. No, però li rende un po' più umani, no? Cioè con la religione, esatto, fondo, sì. Non sono criminali, non tutti almeno, anche il dottore, qui si innamora di più. Tra l'altro, sì. Stilisticamente nel suo piccolo fece anche, diciamo, scuola. C'è Chronicles of Riddick che, almeno dal punto di vista della scenografia della prigione, è praticamente uguale, identico. Stesso sporco, le stesse scelte cromatiche di fotografia, stesso senso di claustrofobia. Ma anche Pitch Black è anche... era un attimo diverso. No, ma io parlo rispetto ad Alien 3. Comunque sì, Pitch Black era in aperti, comunque. Sì, però anche come stile ricordo un po' la saga di Alien, non solo sì, di... Sì, sì, al di là della forma dell'alieno. Senza dubbio. Sì. Prima ci chiedevamo comunque quale film potrebbe essere, diciamo, Social Network. E Gregory, sul forum di Games Village, dice che, per quanto mi riguarda, seppur un film su Facebook possa creare grandi dubbi, pensandoci bene potrebbe invece darvi da un thriller mastodontico, vista la quantità di gente che frequenta il suddetto sito, riportando alle vette il non più giovane regista. Ma sarebbe stato interessante più un thriller in cui il protagonista era un ragazzo di Facebook che si ritrovava dentro a un giro più grande di lui. Ok, è roba già vista mille volte. Però non lo so, questo qui con questo qui vuole creare Facebook, ok? Ma chi gli rompe le balle? Non capisco, da dove nasce il thriller qui? Infatti non penso sia sicuro che sia un thriller, lo stiamo dicendo noi questo, ma sì, è una ma possibilità. Da come è presentato, sì. E da tutto il resto. Sembra un thriller apposta, ma non è ufficiale. Sì, magari è una bella mossa che hanno fatto, però. Secondo me c'è soprattutto l'augurio che sia un thriller, perché se non è un thriller, almeno a me potrebbe fregare meno, ma non perché amo Facebook, ma... Sinceramente non vedo la storia, non vedo... Poi appunto Fincher è uno bravo con la tensione, se non è un thriller ma una biografia o una storia del creatore di Facebook, come ho letto, cioè, senza nessuna accezione particolare, che palle, cioè, sì, ma in quel caso lasciamolo prima morire Zuckerman e poi facciamoci un film, se deve essere una biografia. Ma proprio dobbiamo. Sì, ma al di là di questo... deve, secondo me deve essere un thriller, perché se non è un thriller la trama che potrebbe essere uno di quei film del film alla American... No, ma potrebbe essere uno di quei film all'American Pie. Cioè, vita di college, famose i cazzi delle ragazzine, facciamo Facebook. Cioè... Anche se fosse serio, sapere, appunto, noioso e basta. Cioè, come lo concepisci, così? Come lo rendi interessante? Questo sarà un informatico, un ragazzo che ha avuto un'idea, quindi... Sì, appunto, o fai una commedia idiota, o fai un film poco interessante, oppure, speriamo, un thriller, però, appunto, non ha nulla di originale, quindi dove va a parare questo film? Ma aspettiamo che escano... altri trailer o vengano rese note notizie più succose, casomai. Comunque mi sembra un lavoro su commissione, quasi, che lui fa sicuro dell'incasso, tanto che sia una commedia o un thriller, chi se ne frega. Beh, però, guadagnerà tantissimo, scusa, lo stesso. Scusa, però effettivamente Fincher non è più mestierante da lavoro su commissione, mi sembra. No, lo so, però il lavoro sembra quello, un film su Facebook sembra. Ma anche gli altri che ha fatto, mo non so quali siano quelli non su commissione, ma vedendo la sua cinematografia a partire da Alien, poi Seven, The Game, mi sembrano tutti abbastanza su commissione, cioè non mi sembra che ci sia qualcosa di molto personale che ha voluto fare lui. Ma anche l'ultimo, Benjamin Button. Anche l'ultimo. Accondiscendentissimo, insomma, un film fatto per il pubblico. Ho peccato fatto per l'Academy, però... Sì. Potrebbe esserci dietro chiunque, perché non si vede che è di Fincher, ma vabbè, dicevamo lo stile, non è... però poteva essere chiunque. Insomma. Il fatto è che anche la critica americana se la mena tantissimo su Fincher, hanno pompato tantissimo questa promessa, eterna promessa del cinema americano, e non lo so, sembra anche che vogliano... elevarlo ad autore, non... Gli hanno pure dato il Benjamin Button, non so in che entrata, un'edizione speciale, il DVD, non ricordo. Ah, la Criterion Collection, che dovrebbe essere, sì. Comunque però... fanno tutto cose per cercare di innalzarlo a qualcosa di più che, secondo me, lui non è, cioè rimane un buon regista, punto. Ah, io, al di là dei risultati poi su schermo, comunque Fight Club... Già da Fight Club, secondo me non era più un lavoro, uno che lavorava su commissione. Comunque, portare su schermo Fight Club non è una scelta, diciamo, commerciale. Assolutamente. Però come ha detto pure Intrinseco prima, si vede comunque il film per il tipo di pubblico che fatto. Certo. Cioè, non è che ha fatto qualcosa di totalmente nuovo, che diceva Fight Club, no. Cioè, un bel film sicuramente, però si vede perché è indirizzato, non è che è un film personale, cioè di film personale per me non ne ha fatto nessuno, poi ha fatto vari film, ognuno è indirizzato per un tipo di pubblico diverso, a partire dalla signora o comunque dal tipo un po' più adulto che se guarda Benjamin Button, magari al ragazzino che se guarda Fight Club, però questo non significa che Fight Club sia solo un film per ragazzini, però comunque cioè, sono indirizzati per quel tipo di pubblico e si vede. Zodiac, cioè, Zodiac perché pubblico è? Zodiac che è forse l'unica cosa che è diversa da tutta da tutti i thriller film atipico è un thriller atipico Zodiac. E Panic Room? Panic Room non lo so. L'abbiamo detto, per gli amanti delle serrature, è palesemente un film per gli amanti delle intercapedini. No, una cosa in più che non è un regista che fa film personali, cioè se ha fatto Panic Room perché aveva l'idea di fare Panic Room, allora insomma meglio che si fa controllare. No, sì, per me era un progetto proprio suo, voleva farlo, sì, ma sì, l'idea sì, è interessante. Sì, l'idea è interessantissima, è la realizzazione. Però, evidentemente, il problema è lui. Sì, ma sì, deve esserci qualcosa. Sicuramente un altro ci avrebbe ricavato qualcos'altro. Magari il problema è che la sceneggiatura. Tutto questo clamore intorno a David Fincher, non so voi, ma mi sembra abbastanza ingiustificato. Sì, un bravo regista che ha fatto cose buone e cose meno buone. Sul forum c'era chi diceva che alterna il film buono con il film meno buono. Stone. No, volevo intendere Scott, comunque sì. Beh no, Ridley Scott fa un film epocale e poi è un po' diverso. Sì, ultimamente soprattutto. Però, poi fa Robin Hood con Russell Crowe. Però aspetta, questa... Un po' come pensa... vabbè, ha avuto il suo... Devo fermare quando era in tempo. Sì. Il fatto che Social Network potrebbe essere un thriller o no, c'è già un indizio, un anno dopo, più o meno, sì, uscirà anche il remake, sempre di Fincher, di Uomini che odiano le donne. Sì. E quello è un giallo thriller, ma thriller meno, più giallo. Quindi magari questo si sceglie di fare la puttanata, la commediola, con Social Network, e invece più serio con l'altro, invece di fare due film che magari sono un po' troppo simili. Vabbè, però se seguiamo quello che abbiamo detto prima, ovvero che fa film a scaglioni, è molto più probabile che siano due thriller. Sì, beh, sì. Oppure, e tra l'altro, come ha detto lui, cioè, questo è un film di passaggio, probabilmente, anzi è un film per fare i soldi, per poi magari fare qualche progetto un po' più sentito. Perché, insomma, Fincher piace ai giovani, e Facebook è, insomma, il target, lo stesso. Come è un film che fa l'incasso facile, gli hanno detto fai questo, poi fai quello che vuoi. Ma però tra due anni porterà un altro remake che è 20.000 leghe sotto i mari, ah, e anche quello credo che incasserà parecchio. Sarà un thriller. No, ma dico, se ha bisogno di soldi... Ah, sì. Sì. Sta facendo solo robe commerciali però ultimamente, mi sembra. Appunto. Cioè, curioso caso di Benjamin Button, commercialissimo. Social Network sarà commercialissimo. Uomini che odiano le donne pure, perché... famosa, un film famoso, eccetera, e 20.000 leghe sotto i mari uscirà di sicuro in 3D e sarà l'evento dell'anno e finirà come scontro da Titanic, cioè una mezza sega, sì. Appunto, è la nuova, un'altra delle galline d'oro di Hollywood, con la pretesa di essere un autore quando non lo è, molto probabilmente. Comunque, sul tono del film potrebbe darci qualche suggerimento il fatto che è tratto dal romanzo di Ben Mezrich, che era lo stesso autore di Venturo, non so se l'avete visto. Sì. La storia del poker, no, del poker, Black del blackjack, sì, esatto, 21, sì. Vabbè. Anche lì non è un ambiente giovanile che va in pelagare, sì, in qualche guaio, sì, allora siamo lì. Però lì la svolta era abbastanza fashion. Magari era qui un po' patinata, non lo so. Boh. Siamo... Sì. Vabbè, sì, ma passiamo oltre. Parlavamo del fatto che era un Fincher, un nuovo rampollo dell'Academy. E non so, questo argomento lo vuoi introdurre un po' il Monco, visto che ci ha portato la notizia della nomina dei nuovi giurati del prossimo evento dell'Academy, ovvero la prossima premiazione degli Oscar. Sì, allora, è uscita questa lista ufficiale a questo punto, sì, una lista completa ufficiale della prossima giuria degli Oscar del 2011 a questo punto. Sì, sì. E tra i membri, cioè quindi quelli che decideranno qual è il film più bello, quindi mi immagino gente competente, è stato scelto, ecco, questi sono i nomi migliori: Tobin Bell, che fa l'enigmista in tutti gli enigmisti, cioè cinema spazzatura, poi Ryan Reynolds, che non ha mai fatto un film decente, Zoe Saldana, che è l'attrice del momento, vabbè. Adam Sandler, non so se non credo che abbia mai visto dei film seri in vita sua e non film suoi, e poi Christopher Waltz, vabbè, non lo so, ma un po' come il pepe, farà il cattivo anche della giuria, sì, di... sì. È stata scelta anche Saoirse Ronan, che non credo che potrà vedere la metà dei film, che molti sono vietati minori di 18 anni, non lo so come farà a scegliere. Ecco, la prima domanda che poi ti ho posto anche a suo tempo, sì. Durante la premiazione, la cerimonia, mandano sempre in onda il trailer pubblicitario dove fanno vedere più o meno come si svolge la votazione, nel senso che arrivano le bustarelle a casa di tutti gli iscritti all'Academy, che esprimono le loro preferenze, e in base a quelle preferenze poi si sorteggia il migliore. Sì, c'è una fase preliminare in, sì, cui tutti i film vengono mandati, e sono anche più di 1.000 titoli, e sfido che li vedano tutti, quindi vabbè, è già un sistema strano. Comunque la produzione americana sono sempre di un mucchio di titoli ogni anno. Comunque, il 28 dicembre, se non sbaglio, vengono inviati questi 1.000 titoli e passa ai giudici, che devono vederli e dai voti che danno si stila 5 nomination, cioè quest'anno saranno, già dall'anno scorso saranno 10 candidati al miglior film, poi a quel punto devono rivedere i 10 film e da lì si vota e viene fuori il miglior film. Questo è quindi a votare comunque la giuria, cioè i giurati che abbiamo nominato poco fa. Sì, sono quei 1000 membri lì, non so quanti sono, però sono assai. E comunque non sono solo attori, ma ci sono anche membri del reparto tecnico, registi, persone che hanno un minimo più di competenza. C'è anche Campanella, quello che ha vinto l'Oscar miglior film straniero l'anno scorso, ma credo che questi qui stranieri, dove c'è anche Odiard e Shankman, votino solo per i film stranieri, insomma, sono a settore. Capito. Per entrare in giuria devi aver vinto un Oscar, insomma. No, perché c'è appunto Justin Reynolds, non lo vedrà mai neanche col binocolo, neanche lui a casa non ha neanche lo shampoo a forma di Oscar, non può avere niente. Sono milioni per bilanciare, così fanno anche... Sì, anche... povero Adam Sandler, anche lui non vincerà mai, però no, è dentro. Però questa cosa delle giurie che hanno dentro degli incompetenti è una cosa che va per la maggiore, anche a Cannes quest'anno con Tim Burton, allora, tra l'altro, e anche la strafigona lì, adesso non mi ricordo, comunque, gente davvero competente. Sì, vabbè. Comunque si può partire da queste premesse di incompetenza e inadeguatezza per parlare, fare un discorso diciamo più generale sul fatto che gli Oscar importano ancora a qualcuno, servono ancora a qualcosa, ma più che altro sono mai serviti a qualcosa gli Oscar? Questo io vi chiedo. Sì, servono a mettere il bollino nominato o vincitore di X Oscar sui DVD, quello funziona sempre perché il semplice 8 appena vede la scritta nominato 8 a 8 Oscar che fa? Lo lascia lì il DVD, lo prende, sa neanche qual è il film, però 8 Oscar, oh, che scherzi. Ma oltre a questo, non solo gli Oscar, ma in generale tutte queste manifestazioni festival come Cannes, Venezia, eccetera, servono anche per creare interesse intorno al cinema. La notte degli Oscar comunque è sempre uno dei programmi più seguiti in America. Ogni anno, e quindi queste manifestazioni, anche se hanno la qualità è quella che è la maggior parte delle volte, comunque il loro bene lo fanno al cinema, creano interesse, che già è tanto, perché sono magari dei periodi in cui il cinema va un po' di meno, eccetera, comunque ne parlano al telegiornale, se ne sente in giro. Quindi, a parte la qualità dei festival, comunque la loro importanza ce l'hanno, anche per chi comunque il cinema preferisce un altro tipo di cinema, perché fanno pubblicità al cinema stesso. Sì, ma il fatto è questo. Che diventino una kermesse normalissima senza dare premi, perché sennò i premi sono davvero stupidi a quel punto. Il fatto è questo. Dare premi è una cosa, una tradizione ormai che c'è da sempre. Da quando esistono, ma non solo gli Oscar, Cannes, sempre Venezia, il Festival di Berlino, quindi levarli così, certo, levali, però non oggi, ormai dopo tutti questi anni, è davvero difficile come cosa. Sì, però Matteo, scusa, il punto della discussione è questo, a che tipo di cinema fanno pubblicità gli Oscar? Perché l'importante è che fanno pubblicità al cinema, poi dopo, perché se uno si interessa al cinema, già quello è importante, perché non è che tu puoi iniziare direttamente dal cinema impegnato, tra virgolette, è normale che comunque... Il punto è questo, il cinema, comunque gli appassionati di cinema sanno come prendere i premi Oscar, quali conclusioni trarre dalle premiazioni, eccetera. Io parlo proprio del pubblico, diciamo la massa. La massa che non è appassionata di cinema, no? Se fino a qualche anno fa venivano premiati comunque i blockbuster, che diciamo alla fin fine sono i film che interessano di più alla massa, no? Da qualche anno a questa parte vengono premiati comunque, c'è un po' una crisi di identità, non sanno neanche loro quello che fare, perché da qualche anno a questa parte tentano di pompare in maniera ipocrita e comunque in maniera inadeguata, di nuovo, il cinema indie, il cinema di basso budget, il cinema piccolo, però lo fanno senza nessun criterio. Come diceva il Monco tempo fa, hanno ormai questo tipo di cinema ha monopolizzato un premio che è quello comunque di della sceneggiatura non originale, e vabbè, quello ormai è un premio che va solo a loro, ok. Però anche la premiazione, ad esempio, di Crash, la premiazione di Brokeback Mountain, quella di Art Locker, cioè, a che servivano? Ma queste non servono a nulla, forse, ma l'importante infatti non è quello, almeno il mio discorso, io non sto parlando di quello, sto parlando dell'interesse che crea la manifestazione, qualunque essa sia, nelle persone comuni. Poi ovvio che non basta l'interesse, però quello è già tanto, comunque non è poco, già il fatto che comunque ne parlano delle giornali, comunque si sente in giro. Magari c'è più possibilità che qualcuno si interessi al cinema, e dopo ovviamente deve camminare con le sue gambe, deve informarsi, deve vederli lui i film buoni, non è che gli Oscar glieli possono sbattere in faccia, però comunque è sempre meglio l'esistenza di queste manifestazioni che se non ci fossero. Poi ovvio che lo show, se poi dobbiamo valutare lo show, comunque le premiazioni o quello che è, allora quella è un'altra cosa. Però comunque, se tu mi dici a che servono, io ti dico a questo, okay. Che comunque sono utili. No, io dicevo proprio il fatto che tu parli comunque di un pubblico di massa, cosa non appassionato. Ma non il fatto appassionato è... che può anche appassionarsi, o che comunque non sì, è ma appassionato, ma che va sempre al cinema, comunque i soldi, comunque il macchinario gira, l'importante alla fine è quello. Non è che tutti possiamo essere appassionati del cinema, tutti possiamo guardare certo. film, tra virgolette, belli o impegnati, è impossibile. Sì, il fatto è questo però, che non serve gli Oscar per fare pubblicità, diciamo, a quel tipo di cinema, è questo che dicevo io. È un cinema che si fa pubblicità da solo, quindi alla fine comunque anche nelle intenzioni, diciamo, dell'Academy, l'intenzione è quella di, non lo so, di lodarsi, di autoincensarsi, questo è l'intenzione della... dell'Academy, poi non è pubblicitario. È la loro festa. Non lo so, Intrinseco ad esempio che sta zitto che... Mi stavo toccando. Addirittura. No, ma secondo me un valore ce l'hanno, nel senso, però non hanno mai avuto la pretesa di essere altro rispetto a quello che sono, cioè è uno spettacolo, appunto si parlava dello show, in fondo è quello. È promozione, è una tradizione, anche in America ci tengono particolarmente a queste cose, però non è come il telegatto in Italia che ormai non ha mai avuto senso, ha avuto la sua storia, ha la sua storia, adesso è un po' calato come qualità, per carità, soprattutto come conduttori, però... Telegatto? No, era l'Oscar, anche il telegatto, ma parlavo degli Oscar, no, inutili no, però appunto bisogna ridimensionare, non ha mai avuto pretese particolari, secondo me, è sempre stato quello, è sempre stato... momento di un spettacolo in cui si promuovevano certi film, una certa immagine dell'America, del cinema. Quindi il fatto di dire adesso è peggio, no, secondo me sono peggiorati i film forse. E che il festival sia il festival, insomma la manifestazione sia data alla qualità dei titoli. Però in generale voi come lo interpretate il fatto che c'è stata questa apertura nei confronti del cinema minore, diciamo? Forse perché adesso vogliono crearlo il film che guadagna. Prima lo premiavano, adesso vogliono crearlo come hanno fatto con Art Locker. Comunque non penso che se non fosse stato per gli Oscar avrebbe guadagnato qualcosa. E nel caso di Juno e dei vari Little Miss Sunshine, che erano già successi commerciali? Non lo so, cioè, no, dipende quanto commerciali, forse anche comunque Millionaire penso che sarebbe stato un successo discretamente commerciale, però... Ma comunque... chi lo andava a vedere? No. Se non lo so, ma comunque con Millionaire è stato creato sempre dagli Oscar, io mi ricordo... No, Millionaire ha avuto un successo prima degli Oscar in ogni caso, Prima la promozione con gli Oscar diciamo prima... È tornato nella classifica italiana dopo che era stato premiato, è tornato su. Vabbè, ma non guarda la classifica, l'Italia no, è una goccia nell'oceano che non conta niente. Ma anche negli altri stati ovviamente la gente non è che pensa in modo tanto diverso, è normale che anche gli altri in America solo saranno andati a rivedere quando è stato premiato The Millionaire. A rivedere sì, ma il punto è questo, come diceva il Monco, vengono inviati 1000+ film in un giorno a tutti i giurati che devono entro un mese praticamente esprimere un giudizio su tutti i film. È impossibile ovviamente guardarli tutti. Se un film non ha avuto il successo commerciale prima di questa fase qua, non ha praticamente possibilità non ha nessuna visibilità, neanche agli occhi dei giurati. Ma perché forse aspetta, Scusa, e l'ultimo, Art Locker, sì. Chi se l'è inculato prima, eppure ha vinto. Infatti. Vabbè, ma quello è un caso, non, quello sinceramente è un caso che non so per quale configurazione la storia è successo, perché è anche un film del 2008, quindi non... Le Art Locker non l'hanno visto, hanno letto la trama, hanno detto, ah, questo se lo facciamo vincere, un film sui militari giù in Iraq e Afghanistan... Esatto. Nostri conterranei giù là, cioè c'è una donna ed è anche la moglie di Cameron, quindi anche quello, appunto, questo è un chiaro messaggio che diamo, noi siamo per le truppe, non l'hanno visto comunque il film, appunto, ma non è, secondo me non è un discorso di film, non è che fanno delle scelte per promuovere il titolo, secondo me scelgono il titolo per promuovere la manifestazione, cioè tutto in funzione di quello, poi il successo è un effetto collaterale, cioè Slumdog Millionaire sicuramente ha fatto discutere tanto sulla manifestazione, poi sul film, quindi secondo me loro mirano a quello, cioè scelgono il titolo che sicuramente farà discutere, farà parlare meglio degli Academy, appunto come Art Locker, che insomma il film impegnato, la donna, quindi guarda i telegiornali anche in Italia, quelli di infima categoria, cosa hanno detto? C'è la coppia che si sfida, no? Sì. Cameron e l'ex moglie, secondo me non bisogna parlare dei film, i film sono, almeno a chi lavora agli Academy non importa, il film è un prodotto da utilizzare, perché ci devi mettere l'attore che va in quel periodo, Hugh Jackman, oppure quello che fa ridere, devi metterci i film che fanno discutere, i registi che fanno discutere, devi premiare i ragazzi indiani, devi premiare la sceneggiatura di uno che è stato in Iraq, devi premiare, devi far discutere, basta. Poi il film che esce, chi se ne frega. Ed è stato sempre così secondo voi? No, però c'è sempre stata... Più così adesso. Però c'è sempre stata una moda di premiare tanto un solo film, cioè per dare la notizia il giorno dopo X film ha vinto 8 Oscar, cioè questo fa notizia in confronto a 4 film si sono spartiti 2 Oscar a testa, chi se ne frega, certo. Ci deve essere il vincitore che ne vince 8, 10, 12, se no sembra quasi un'edizione sprecata. Ci hanno anche provato a fare una cosa del genere, però ad esempio quando il periodo di Brokeback Mountain, che io ricordo che c'erano lui, Good Night e Good Luck di Clooney, Munich di Spielberg, e provarono un po' a smistarli i premi, ma lì non serviva, perché c'era già la storia dei cowboy gay. Sì, esatto. Bastava quello, non serve fare altro. E Intrinseco stava dicendo qualcosa? No, niente, cioè, conferma di quello che dicevo, cioè appunto anche in quel caso la scelta è dettata da necessità di audience. Ok. Anche Benjamin Button, visto che ne parlavamo. Il regista che viene non dal basso, ma comunque da produzioni che sicuramente non andavano mai agli Oscar, no? Perché insomma quello che aveva fatto prima non ci sarebbe finito neanche per sbaglio. Pam, di colpo gli appioppano un filmone insomma con un range abbastanza ampio, perché insomma è per la famiglia, tutto sommato. E anche lì di cosa si parlava? È Fincher che fa il film per la famiglia, impegnato, il Colossal. Certo. Ecco, anche quello che diceva Darkman, che questo può essere un metodo per far avvicinare la gente al cinema. Ma non è vero, perché non parlano del cinema e telegiornali, parlano appunto della sfida tra Cameron e la moglie. Lo e chi so, se ne frega, però, quali sono i film? Lo so, ma non sempre parlano, per fortuna, della sfida tra Cameron e la moglie. Però comunque il fatto che la manifestazione esiste, e comunque sì, tu anche magari vai a, non lo so, vai, ne senti parlare comunque, magari da un attore, da un film, magari te lo vedi, ti piace... Comunque meglio l'esistenza che la non esistenza. Se dovessimo scegliere, perché ha detto a che servono, come se non servissero a nulla, è meglio eliminarli. No, ma teniamoci, perché comunque a qualcosa serve. No, io non voglio eliminare nessuno, assolutamente. Ma poi ho detto che sono inutili, ho detto che se il film ha successo, se prende visibilità, come hai detto tu, se fa avvicinare al cinema, qualsiasi sia l'effetto, a loro non importa. Ho detto no, loro non importa, hai detto un effetto, però comunque c'è. Non è mai, non ho detto questo, solo ho detto, c'è un effetto collaterale, che ci sia va benissimo. Collaterale, sì. Ci, va bene. A me sembra non che... Non sono contro gli Oscar, ho detto, è così, è un caso che il film poi faccia avvicinare il pubblico. Ma... Esatto. È un caso, sì, non è loro, ma a me non interessa che sia il loro obiettivo o no. Cioè a me interessa che comunque ci sia questo effetto collaterale. No, comunque... In generale, dalla discussione che abbiamo sostenuto, mi sembra anche abbastanza inaspettatamente, per quanto mi riguarda, che stiamo un po' rivalutando i premi Oscar. Quindi non ne stiamo parlando male, insomma. Ecco, l'ultima domanda che volevo fare intrinseco prima di leggere il parere di un utente. Tu hai detto comunque che non hanno mai avuto la pretesa artistica, diciamo, no? No, cioè, non è un festival. Come tu, quindi diciamo, tu dici che anche le premiazioni recenti di Cohen e di Scorsese sono state pubblicitarie, diciamo? Scorsese assolutamente. Sì, vabbè, appunto. Appunto, è tutta una questione di visibilità. Se premi o fai parlare di quel film, che poi sia un film d'autore, un film indipendente, il cazzo che vuoi, è una cosa che fa discutere, perché è tutto secondario per loro. Non è una cosa che dura tre giorni, cioè, quello che diceva, non so chi prima ne ha parlato, The Millionaire, non è che dopo gli Oscar è diventato il film da far vedere, cioè, già mesi prima era il film importante, cioè, probabilmente c'è un'operazione a priori, cioè, loro pompano su certi film e se lo tirano avanti per un anno buono, cioè, 12 mesi di promozione cinematografica ce li hanno, perché prima, poi la premiazione, dopo, poi se ne parla in TV, gli ospiti, guarda Letterman, io ogni tanto guardo Letterman, lì insomma gli ospiti ne hanno per settimane. Cioè, forse anche per questo che hanno aumentato le nomination da 5 a 10. Cioè, hai più film, dura di più, se ne parla più. Comunque da avallare questa tesi c'è il fatto che una volta lanciato Eastwood a livello mondiale per quanto riguarda gli incassi hanno cominciato a snobbarlo a destra e a sinistra, quindi... Appunto, è vero, sì. Avalla non questa tesi, insomma. Film, non era più una novità. Anche Eastwood comunque ha fatto il film a posto dei ragazzi indiani, ci ha messo ragazzi coreani, cinesi, non ricordo... Vabbè, non è la stessa cosa, però. No, non è la stessa cosa, per fortuna non è la stessa cosa, però... Io non penso che dipenda solo dal tema, certo, quello è importante, ma magari anche dai nomi che ci stanno, magari Eastwood, non lo so, noi non lo penseranno. Comunque Eastwood in America non so quanto incassano i film di Eastwood, forse no, già il nome Eastwood che non gli piace più così tanto, non solo per i film che fa. No, vabbè, che l'hanno spremuto a suo tempo, secondo me quando sarà lì per morire avrà fatto l'ultimo film, vedrai che lo richiamano dentro. Non se ne potrà parlare di nuovo, ecco, però ora non fa più notizie, è ancora vivo, fa ancora film, che noia. Qualche giorno fa arriva Matteo e mi fa: oh, la prossima volta voglio parlare delle lezioni de piano, con il Monco che lo prendeva per culo additandolo come un gay. E quindi adesso il Monco. Questi retroscena potremmo anche evitare di raccontarli. No. Fai adesso Darkman ci parla di Lezioni de Piano. De Piano, esattamente. Da non confondere con Lezioni di Piano, che è tutt'altro film. Allora, Lezioni di Piano. Ovviamente non lo racconto la storia. Allora, diretto da Jane Campion, con Harvey Keitel, Holly Hunter, Jim Neal e Anna Paquin, quella di True Blood. Un film romantico, non nel senso stretto del termine cinematografico, cioè romanticismo come corrente letteraria, esatto. Sì. Infatti scritto e diretto da lei, comunque è un film abbastanza... cioè, che ho trovato in confronto ad altri film romantici abbastanza all'acqua di rose, perché anche se c'è un po' un romanticismo per ragazzine o comunque un po' per tutti, per chi non c'ha voglia di rischiare o comunque non vuole farsi male tra virgolette, è un film che comunque fondamentalmente è buono, è ben girato, ha parecchie scene, soprattutto quando lei la muta esce dal mare. Comunque altre scene parecchio, cioè è ben girato, anche la colonna sonora non è male dal mio punto di vista, anche se forse un po' troppo monotona, però l'ho detto, è un film abbastanza leggero, comunque che non è brutto, però non osa, non rischia, un film fatto forse proprio da, scritto e diretto da una che è rimasta abbastanza ragazzina, non nel senso cattivo del termine, però con quella sceneggiatura magari, no, cambiandola un po', si sarebbe potuto fare di più, comunque confrontato ad altri film romantici degli ultimi comunque anche 20 anni, c'è di meglio sotto questo aspetto. Ma tu con cosa l'avresti, dove l'avresti usato? Fai un esempio. Non lo so, però ad esempio prendo Le Onde del Destino. Vabbè, ma lì è un Trier, è un pazzo. Sarà un pazzo, però sicuramente è un film più sempre sullo stesso stile, nel senso abbastanza romantico sotto quel punto di vista, che è molto molto molto più coraggioso. Quel film è più normale, più semplice, non osa, non rischia, l'ho detto. Poi un'altra cosa forse che mi ha lasciato un po' male è che comunque è ambientato in Nuova Zelanda. In quest'isola c'è il contatto con la natura è abbastanza evidenziato, comunque con loro che stanno in mezzo al fango, varie scene del genere, quindi la natura è molto presente, però dal mio punto di vista non viene valorizzata per niente, cioè comunque c'è ed è bella, però non è che cerca di valorizzarla in qualche modo durante il film, cioè rimane là, è bella, punto. E per il resto nulla, è un po' fine a se stesso. È fine a se stesso, sì, ma c'è anche la scena più tragica. Comunque, cioè, non è esasperato, forse è questa la cosa che non lo caratterizza particolarmente. Il romanticismo è sempre abbastanza esasperato, anche gli altri film romantici come quello dei Von Trier, strascicati, che magari possono per certi stomaci essere un po' duri. Ok. Però vorrei aggiungere che anche il Bright Star, sempre della Campion, ha un po' le stesse caratteristiche. È una che non osa e si trascina, dai. Esatto. Non si trascina. Romantica, ma non osa. Intrinseco da In fondo al mar che parlava, che... No, i film in costume ormai tendono a somigliarsi un po' troppo, anche perché gli stilemi sono sfruttati già un po' tutti. Nel senso, quelli buoni li hanno già fatti, ecco. Dopo che Kubrick ha fatto Barry Lyndon, era inutile campare, quindi... No, ma in effetti ne fanno sempre troppi, secondo me è un genere che vende ancora, ma strano. Beh, che non c'è Keira Knightley, infatti, esatto, sto pensando a lei. C'è chi cerca che magari Orgoglio e Pregiudizio con gli zombie potrebbe essere una variante, anche se demenziale, ma almeno qualcosa di diverso. Si dissacra un cliché. Magari è una stronzalanza. E poi ci saranno gli appassionati del romanzo che diranno: ma ho rovinato il romanzo, qua e là. Se ne era bella perché era ironica, dovrebbero apprezzarlo proprio di più per questo, no? Io sarò tra loro, visto che sono un osteniano pesante. Ah, quindi farai il bigottone? Sì. Sono pienamente ottocentiano. Ok. Vabbè, ma c'entra, no? La Austen era ironica, prendeva un po' in giro la sua epoca, questo dissacra una dissacratrice. No, però dissacra una dissacratrice, ci sta, è coerente con lei. Sì, sì, ma ho paura che venga fuori un film del cazzo. Ah, ma quello, sì, volevo dire, non, okay. Il resto va bene. Ho pensato fosse una cosa a priori, no, vabbè, il 90% no. Sì, c'è una boiata, d'accordo. Già leggendo un po' la trama del libro, che sono dei passaggi con degli Shaolin, quindi... Anche perché un film così poi non lo daranno sicuramente a uno brillante, quindi... No, sì. Ok. Che cosa hai visto invece, Luca? Ma passiamo a un altro film molto romantico, che è L'abominevole Dottor Fibes di Robert Frost, un film del 1971. Ah, innanzitutto l'ho visto per un errore pensavo che fosse un altro, pensavo che fosse il terzo capitolo della saga del Dottor Mabuse di Fritz Lang del 1960. E vabbè, e comunque mi sono trovato un bel gioiellino, non oserei definirlo trash, però è molto divertente, è un po' stralunato come suo protagonista, un favoloso Vincent Price alle prese con l'ennesimo horror, ci ha fatto una carriera su, il poveretto, però è sempre godibile come non mai. Il film, sì, è una trashata perché... Si prende sul ridere, vuole essere una parodia del genere horror fino a quel periodo, insomma. Con, per esempio, il protagonista che suona l'organo all'inizio, sembra una chiara citazione dal Fantasma del palcoscenico, non sbaglio, no. Vabbè, comunque la storia era anche interessante. Questo dottor Fibes, che è dottore in teologia, dopo la morte della moglie si vuole vendicare coi 9 chirurghi che hanno operato la moglie e per un errore l'hanno uccisa. E il film è tutta una serie di uccisioni molto divertenti e alcune macabre quanto complicate che Fibes usa per appunto uccidere questi 9 poveracci fino all'ultimo all'ultimo che dovrebbe essere Joseph Cotten, cioè un attore che ha lavorato con i grandissimi registi come Hitchcock e Welles, e non so perché mai finito in questa operazione. Vabbè. E comunque ogni uccisione è basata su una delle 10 piaghe d'Egitto, e questa è una bella idea, visto che lui è un dottore in teologia. Vabbè. Comunque, un ottimo film, divertente, spensierato, anche un po' giallo e dalle tinte horror, che ha un seguito che è Dr. Fibes Rises Again, tradotto, cioè in italiano è arrivato con il titolo di Frustrazione. Che cazzo lo va a vedere? Non sai che è il seguito dell'uno e se vai a vederlo non capisci cos'è perché non hai visto l'uno. Ma quello non sa. Può essere tipo una un'esclamazione del doppiatore, era frustrato, sì, detto, sì. Frustrazione. Molto probabile, anche perché il secondo è più un'avventura che slegata totalmente dal primo. Diciamo che il primo si conclude e non c'era nient'altro da dire, eppure si vede che ha incassato talmente tanto ed è piaciuto che hanno voluto fare un seguito inutile, non divertente quanto il primo, non dico brutto, però diciamo che ci si può fermare benissimo al primo. Okay. E il secondo però ha un incontro storico tra i due campioni massimi dell'horror di quel periodo, cioè Vincent Price e Peter Cushing. Ah. Anche se non sono nella stessa scena assieme, però sono stati nello stesso film. Invece tu, intrinseco? Intanto ho visto stasera la seconda volta di Mimmo Calopresti, il primo lungometraggio prodotto da Moretti. La seconda volta l'hai visto, ma cosa? lo sapevo. La seconda volta regia di Mimmo Calopresti. l'ha diretto per la seconda volta, ma cosa? Sì. Beh, se continuiamo così, teniamo bene alto il ritmo, dai. Prodotto dalla Sacher, e quindi ovviamente c'è Moretti, non resiste, deve mettersi in mezzo, e stranamente è il più bravo tra gli attori, nonostante Valeria Bruni tedeschi abbia vinto il David di Donatello, non so, a me è sembrata abbastanza rigida. Comunque, niente, una specie di storia d'amore, quasi. Moretti interpreta Alberto Saglievo, un professore universitario che sopravvive a un attentato di due brigatisti, credo, comunque due terroristi, e anni dopo rincontra la donna che gli ha sparato, che è vive agli arresti, no, non domiciliari, comunque in semilibertà. E niente, lui rimane colpito, cerca di contattarla, lei vuole perdere i contatti, lui invece vuole capire perché lei è arrivata a quest'atto, questa reazione violenta, non, in realtà non capisce proprio le motivazioni del movimento studentesco, del terrorismo, degli anni della tensione, quindi si interroga un po' su perché, insomma, ripete molto questa frase che era un motto dell'epoca, no? Punirne uno per educarne 100, quindi non rifiuta questo tipo di violenza, questo tipo di violenza, cerca in lei una risposta. E niente, il film è abbastanza delicato, analizza queste due personalità che si scontrano, solo che insomma il cast è pessimo, a parte Moretti e la Bruni tedeschi, sono una serie di comparse veramente imbarazzanti, rigidissime, fuori luogo, non so, sì, è un'opera prima, quindi è difficile trovare un cast, però insomma l'ha prodotto Moretti, lui è uno che sa scegliere l'attore, infatti ne ha piazzati un paio che ha usato frequentemente nei suoi film. Però gli altri sono veramente inguardabili. Comunque molto bello, molto delicato. Ah, ok. Consigliato. E poi aggiungo, ho visto l'altro giorno Io e Marley, visto che parlavamo di cinema trash, e niente, dopo Io e tu Pre, in questo film ci sono due cani, e, oltre a Owen Wilson c'è un Labrador, e niente. No, un film paraculissimo, perché insomma chiunque abbia un cane si sentirà toccato, insomma è mescolato. Si toccherà, è diverso. Sì, anche esatto. C'è una prima parte che è Beethoven, infatti, che il cane è cacciarone, che spacca tutto, e poi è il dramma della morte, senza spoilerare. Ecco. Il film è basato su un libro scritto per questo, quindi. Cosa lo guardo a fare adesso? Lo sapevi già, tu tagliati. Ma forse l'ha fatta apposta, Niccolò, per non farlo vedere. Volevo salvare, volevo salvare dalle lacrime. Niente, un film che non ha nulla da dire. Sì, l'ho è visto... una bella categoria di film toccanti che vogliono strapparti la lacrima e un po' ci riescono perché insomma deve essere uno stronzo per non sentire almeno un po' il colpo. Sì, però ma... questo non vuol dire che sia un bel film, vaffanculo. No, dai, non è un bel film, su, dai, non scherziamo. Cioè, come dici tu, effettivamente, soprattutto se è un cane. Owen Wilson ha tentato il suicidio. Insomma, dopo, dopo io e Marley, dici tu. Sì, no, no, anche figlio. No, una storia, è una storia autobiografica, è per quello che c'è lui. Sì, sì. Ah, il primo film di cui voglio parlarvi oggi è Dragon Trainer, un film d'animazione in computer grafica della DreamWorks. Realizzato dai autori di Lilo e Stitch, uno dei, forse non l'ho visto io personalmente, però è ritenuto dai più come uno dei migliori film d'animazione della ultima Walt Disney, diciamo. Concordo. Concordi? Sì, sì. Allora, quando vidi il trailer a suo tempo, molto prima dell'uscita del film, sinceramente non mi aspettavo niente di che, anche perché il character design mi sembrava abbastanza scarno e poco ispirato, ma in generale la storia non mi attirava più di tanto. Dopo aver visto i primi minuti mi sembrava quasi di stare a vedere di nuovo un qualsiasi Kung Fu Panda, c'era cioè questa storia di questo ragazzino che è il rampollo del capo dei vichinghi di questo villaggio che pensano soltanto a distruggere i draghi, e lui è un gracilino che non potrà mai ambire a diventare un vichingo. Insomma, c'è questa prima sequenza in cui tutti quanti vanno a distruggere i draghi, a menare agli draghi, e lui invece rimane dentro alla fucina a lavorare alla spada e, non lo so, a forgiare armature per loro. Fatto sta che comunque Dragon Trainer è un ottimo film, non è assolutamente il solito film della DreamWorks, non fa appello alle solite gag volgari, slapstick, qua e là degli altri film DreamWorks. Scusa, ma a livello di trama, sì. Cioè, hai raccontato questo picchia i draghi di qua e là, si lavora la spada, in cosa è diverso e superiore agli altri prodotti tipo un Kung Fu Panda? Qualsiasi. Non dal punto di vista della trama, sostanzialmente se andiamo al succo del plot, non è tanto diverso da un Kung Fu Panda. Non c'è la morale che poteva essere ambigua di un Kung Fu Panda, questo no. Però alla fine è comunque una storia di rivalsa nei confronti del genitore, di comprensione tra due razze diverse. Innanzitutto è scritto benissimo, secondo me è uno dei migliori film d'animazione da questo punto di vista recenti, è scritto veramente bene. È un film che è un grande contenitore di un sacco di elementi, come dicevo c'è comunque l'elemento Avatar, ovvero la simbiosi tra la bestia e l'uomo. C'è, non lo so, un elemento alla Harry Potter, perché comunque ci sono questa classe di ragazzini che si allenano per diventare vichinghi, che ricorda molto da quel punto di vista un Harry Potter. Ma aspetta, un'altra similitudine con Avatar è anche che lui deve prendere un drago come lui, come protagonista di Avatar, doveva prendere uno di quei mostri lì, no? Ma qui più che una necessità è il discorso è diverso, lui non può, secondo le leggi comunque del suo villaggio, non può andare a combattere contro i draghi. Una sera decide che deve combattere un drago, tenta di catturarne uno e quando si ritrova a doverlo uccidere non ci riesce. Forse per il fatto che il drago comunque gli comunica una sorta di umanità, non è una semplice bestia. Non ci riesce e quindi inizia a interagire con questo drago che comunque è rimasto ferito dallo scontro con il protagonista e quindi non riesce a capolare. Non è un po' simile a Covola degli Squali, come si chiama? Sharks? Non lo so, non l'ho visto Sharks sinceramente. Non so, c'era lo squalo che non riusciva a mangiare il pesce, umano. Sì. Vabbè, ma stiamo a fare fiscale, è uguale a tutti gli ultimi film della stessa. No, vabbè, per capire dov'è sì. Tutto questo prodotto migliore degli altri. Appunto, no, semplicemente che te lo sto dicendo, è scritto molto meglio di tutti. Sì, sì, no, ho capito. Cioè, è il classico, il classico risultato in cui il complesso è meglio della somma delle parti. e a ritmo, e in alcune sequenze anche cupo, è anche coraggioso perché comunque un film, ci sono degli elementi che per un film di animazione che comunque è dedicato ad un target abbastanza giovanile, ci sono degli elementi coraggiosi, ecco, ad esempio, vabbè, non so, non voglio spoilerare nulla, però alla fine non è tutto rose e fiori, insomma. Il prossimo film di cui voglio parlare è Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson. E, no, detto in breve, secondo me è il miglior film di Wes Anderson. È quello in cui, da un punto di vista formale, uno raggiunge la maturità. Anche dal punto di vista delle tematiche, secondo me le stesse tematiche nell'ennesimo film live action sarebbero state, non lo so, forse noiose, non lo so, sarebbe stato ripetitivo, ridondante. Invece, incredibilmente, in un film d'animazione ci stanno benissimo, e l'animazione è stop motion, diciamolo per chi è male informato. Stop motion che sì, dal trailer sembrava fatto molto male, eppure è un ottimo risultato. E il pregio comunque migliore del film è il fatto che Anderson può dare libero sfogo al suo talento visivo, anche per quanto riguarda le scenografie, i costumi dei personaggi, che secondo me sono fantastici, meritavano addirittura una nomination all'Oscar, tornando al discorso di prima. E, non lo so, è un film che mette di buon umore, ne parlavamo l'altro giorno con Luca, effettivamente è un film che come stai, se lo guardi ti ritrovi col sorriso sulla bocca, a ridere delle battute dei vari personaggi, è molto bello, è molto delicato, grande Anderson, secondo me se si butta a capofitto sull'animazione fa solo che bene, poi non so tu Monco come la pensi. È uno dei pochi film che ti fa sentire in pace con il mondo. Quegli 80 minuti in cui sei tranquillo, spensierato, ti vedi questa bella storia, che è bella anche dal punto di vista visivo, che è molto bella. Tu parlavi dei vestiti, ma anche sì. I campi, i personaggi, tutto bello, non trovo pecche. Non c'è altro aggettivo, d'accordo. È bello questo film, è bravissimo, punto e basta. Non so se meritava l'Oscar, perché Up... Bah, sì, forse era meglio premiare Fantastic Mr. Fox, che era un prodotto più artigianale, più alternativo e che osa un po' di più. Up, sì, bello, però magari era meglio premiare qualcuno più alternativo. Forse, visto il discorso che abbiamo fatto prima, non serviva a premiare la Pixar, diciamo. Dai, Intrinseco, parlaci un po' della... In generale della papessa, dai. Vado io, allora, intanto non è una storia vera, ma riprende un'allegoria medievale, quindi insomma già il fatto che... non è vera, oh! Non è vera, su, si ispira a un personaggio che è esistito, ma che non è stata una papessa, ma non mi ricordo il nome, comunque una donna che ha controllato il papato per qualche anno perché aveva rapporti con i papi, e quindi gli si attribuisce questa cosa che in realtà non è successa. E comunque insomma il film va ben oltre la leggenda, perché si inventa una storia, insomma una biografia intera dalla nascita alla morte, e insomma, racconto la trama? Ma non lo so, se vuoi. Vabbè, parla di questa Giovanna, nata in povertà in Germania, se non sbaglio, insomma si rivela abilissima a imparare il latino e il greco e accede a dei monasteri con le vesti da uomo. E poi per una serie di casi diventa il medico del Papa e lo sostituisce diventando a sua volta appunto una papessa. Un grassissimo John Goodman. Sì, il Papa è interpretato da un John Goodman malato e grasso. Non so se uno di voi due ha detto è John Goodman interpretato da John Goodman. Cioè, no. Sì, sì. Se Monco l'aveva detto. Esatto. No, John Goodman interpreta la papessa perché è gravida. Sì. Tra l'altro John Goodman è dimagrito un sacco, era da Letterman l'altra sera. Chi se ne prende più? Non lo so, per Darkman, che so che è appassionato. E niente, quindi... appassionato io. Di ciccioni. Io sì, no, di John Goodman. Certo. Ma non mi interrompere, cioè, non mi fai parlare. Non si riesce a fare un commento. Questa cosa. Dai. Insomma, è una leggenda che viene fatta per realtà, ma è anche una storia d'amore, anche se molto goffa. Tra questa Giovanna e insomma, il suo protettore, insomma, un cavaliere che la prende in custodia. E, insomma, un film storico, che non è un film storico perché si inventa qualsiasi cosa, dall'identità del personaggio a fatti che non sono mai accaduti, una storia d'amore che non esiste praticamente. E che non fa cagare, oggettivamente. Sì, non è astratta, è abbastanza... Vuole essere un film storico, ma non è un film storico. Vuole essere una storia d'amore, ma è scialbo, quindi non è nulla. E tra l'altro è anche molto lungo, molto... non articolato, comunque... Insomma, il fatto è questo, è che la storia ha comunque un alto potenziale anche, non so, critico nei confronti della Chiesa in generale... ma più in generale ancora del trattamento delle donne. Esatto, sì. Sì, però il potenziale che ha è sfruttato malissimo, sì. Anche quando si tratta di osare. Affatto, sì. Anche quando si tratta di osare, cioè non lo so, cioè preferisce far vedere la decapitazione del vescovo della situazione, però non lo so, quando si tratta comunque di vedere il padre che frusta la figlia, dopo la prima frustata toglie lo sguardo il regista, non lo so. Perché drammatizza così tanto certi aspetti, cioè il trattamento della donna, la cultura, la degrado, li esalta così tanto che invece di sembrare una denuncia, una critica, diventa una parodia, cioè non lo prendi più sul serio, perché il padre è troppo cattivo, il vescovo è troppo debosciato, l'insegnante è proprio maschilista, quindi non perde neanche quella sfaccettatura di film critico, non è nulla, è una quasi parodistico. È didascalico in una maniera schifosa. Dici. Tu parlavi di critica senza tanta potenza, insomma, dalla Chiesa... No, dicevo che ha il potenziale, ma non lo esprime. Sì. Questa critica alla Chiesa e alla posizione, alla condizione della donna. È un film molto simile che fa queste due critiche, ma è del tutto riuscito ed è un ottimo film, è Agorà, che è uscito due mesi prima. Sì. Ecco, allora meglio vedere quello due volte che vedere la papessa una sola volta. Ecco. L'ho perso, invece non ho perso la papessa, che mamma mia. Vabbè, non lo so... Siamo abituati a vedere comunque una Roma diversa, però dal punto di vista scenografico non so quanto sia accurato, ma è davvero di cattivo gusto questo film, anche per quanto riguarda i vestiti. Non è accurato, perché si vede San Pietro, ma credo sia nel posto sbagliato, non è su una collina. Vabbè, ma quello è il fatto, no. È questo, quando fanno le panoramiche è una è una cosa, come si chiama, una cartolina ripresa così alla cazzo di cane, non è... Quel digitale economicissimo... Che sembra finto da... Ma non credo manco sia digitale, perché io ci ho fatto caso, cioè, praticamente, la panoramica sulla città, si vede anche il Tevere, ma l'acqua sul Tevere non scorre, è fissa. Quindi penso sia proprio un'immagine ferma. No, ma guarda, a quei tempi era ferma. Sì, l'hanno poi mosso, mi sembra, intorno al 700. Le pantegane, sì. E... Anche prima, nel tardo antico, si vedeva male, non è... Sì, beh, anche, sì. Vabbè, io parlavo più in generale dei costumi e degli interni. Cioè... Sì, è banalizzato anche qui. Ma anche la porta, il meccanismo che apre la porta. Ma Cristo, poi questa cosa che lei scopre con il percettore, la deve per forza utilizzare, no? La porta per fermare l'avanzata dei lanzichenecchi. Ma che cazzo vuol dire? Diciamo che sembra una produzione dell'Est Europa a bassissimo budget... cioè, per quanto riguarda i costumi, scenografie, effetti speciali davvero. A me sembra chiaramente un prodotto televisivo proprio, che è stato spatacchiato in sala un po' a forza. I film tedeschi ne farai due. Sì, praticamente quelli con Rex e Zilia. No, e poi c'è Faramir. Quello è Faramir. Sì, sì. Che culo. Hanno ritrovato le stesse extension che usava per il Signore degli Anelli, impressionante. No, ma lui non si è mai cambiato. Oddio, ha fatto Van Helsing, era pelato, ha fatto Australia ed era grasso e con la pettinatura, con la gelatina e poi ha fatto... Anche John Goodman non si è dovuto alzare dal letto, l'hanno portato in studio, l'hanno registrato e l'hanno portato a casa. Ma però devo dire che gli effetti speciali con Goodman sono buoni, cioè... Sembrano davvero le sue gambe quando si muove. Quando avete visto le improvvise impennate di gore splatter durante la decapitazione del vescovo, che avete pensato? Cioè? Io stavo per lasciare la sala, non per disgusto, per lasciare no, no. questo generale. Bello che ad Agora qualcuno, anzi un bel po' di persone hanno lasciato la sala, invece quando abbiamo visto questo sono beccato tutto, e poi dura anche un bel po'. Invece Agora no, Aspetta, io voglio rimanere fino alla fine, voglio sapere se diventa papessa. Il fatto è questo, è che da quello che ho sentito da pareri esterni, perché non ho visto Agora, il principale difetto che gli veniva imputato è quello di una lentezza e di un ritmo non proprio esaltante, un po' soporifero, no? No, ma che devi fare per quelle storie lì, insomma? Vabbè, ma lo sai come la penso al riguardo, cioè il ritmo non me ne frega niente, può essere sì. lento o no, ma se non è così lento. Da quello. No, ho trovato la papessa di una lentezza in confronto a Agora tre volte. Questo no. Cioè, personalmente l'ho trovato lento la papessa. Fortunatamente è filato via liscio in maniera abbastanza veloce, perché se veramente... due ore e mezza, sì, circa. 149 minuti, mi sembra. Sì. Madonna, ma sai cos'è? La papessa intellettualmente non pesa, quindi sì, è lungo, ma... Masticazzo. Ancora è bello, ma ti fa pensare un po' di più. Però comunque a me è sembrato... ho sentito molto di più la papessa anch'io. Agora, sì, insomma, dura un po', ma poi è diviso in due parti, quasi simmetriche, il ritmo è abbastanza serrato, anche per un film di quel tipo. Cercherò di recuperarlo. Vabbè, allora la puntata è conclusa qua, non so se qualcuno vuole dire qualcos'altro, volete aggiungere qualcosa? Darkman, vuoi salutare di nuovo i tuoi fan? Ah, io avevo un appunto da dire ad Atlas. Smetti, guarda, non scrivere più, tranquillo che non sentiamo la mancanza. Ciao amico, ciao. No, più che altro io volevo dire Atlas, se sei arrivato a questo punto sappi che non hai fatto la cosa più intelligente di questo mondo. dopo che ritieni che non diciamo cose interessanti, hai perso due ore della tua vita inutilmente. Non ha ascoltato, lui critica a priori, quindi... non ho capito, ha parlato di intento provocatorio e vabbè, quello era chiaro, non vuole essere una cosa seria, ma qual è la lamentela? Come al solito 40 righe, 20 righe di cosa, di sproloquio, poi questo intellettualismo che non c'è, perché parlare forbito va bene, per carità, ma il problema è che non è che ci sia molto dietro. Mancano i contenuti. E vabbè, e allora la puntata la dichiaro chiusa qui, adesso, ora, anche perché è una certa, e ci abbiamo tutti sonno, e domani dobbiamo alzarci presto. Non ce l'ho più sonno, ce l'avevo, adesso mi è passato. Te l'hanno fatto passare sti due qua. Quindi, vabbè, speriamo di essere migliorati, di avervi divertito per altre due ore, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao! Ciao. Si conclude qui la prima puntata ufficiale dei Cineplegici. Abbiamo fatto tesoro dei consigli che ci avete dato e abbiamo tentato di dare una struttura più solida e coerente alla trasmissione. Tuttavia questa non è la forma definitiva, il podcast sarà un eterno work in progress dalla struttura flessibile. Ancora una volta vi invito a farci conoscere il vostro parere inviandoci una mail a cineplegici@gmail.com oppure visitando la nostra pagina di Facebook o ancora postando dei commenti direttamente sul blog. Grazie e arrivederci. Ciao ciao. Ci vediamo alla prossima puntata.